Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Oggi continua il racconto della storia della nuova economia mondiale. Ieri ci siamo lasciati con un mondo che andava verso il libero mercato. Nella battaglia tra Keynes e von Hayek, Hayek sembra averla vinta. La prima tappa di questo difficile processo di riforme verso la liberalizzazione è la Bolivia. Nell'85 il paese è sull'orlo della bancarotta. Il governo deve trovare un nuovo modello di sviluppo economico che possa impedire la rovina definitiva di uno dei paesi più poveri e instabili dell'America Latina. E la soluzione forse è a Harvard, negli Stati Uniti. 23.500%. I prezzi aumentavano ora per ora. 7 boliviani su 10 vivono in condizioni di povertà. I poveri sono i più colpiti. Vedono le loro tasche svuotate dall'inflazione galoppante. Il problema è semplice. Il governo spende 30 volte di più di quanto percepisce con le tasse. In tutta l'America Latina, le economie non competitive hanno accumulato debiti. Negli anni 70 un'impennata dei prezzi del petrolio inonda le banche straniere di petrodollari. Ascoltiamo Al Arberger, professore a Chicago, e l'ex presidente della Bolivia, Gonzalo de Losada. Le banche internazionali avevano miliardi di dollari, ma non sapevano come investirli. Poi scoprirono l'America Latina. Ci offrirono una quantità spropositata di soldi. Queste banche non attuavano una saggia politica di finanziamenti. Pensavano che un paese non può fare bancarotta. E indovinate un po', un giorno questi paesi non furono più in grado di ripagare i debiti. Avete ascoltato la voce dello scrittore Moisés Naím. Nel 1982 una crisi economica in Messico innesca una reazione a catena in tutta l'America Latina. Durerà per tutti gli anni Ottanta. Ce ne parlano lo scrittore ed economista Joseph Stanislav e poi ancora Gonzalo de Losada. La Bolivia era probabilmente l'esempio più grave della crisi latinoamericana. Per decenni continuarono a stampare banconote perché non riscuotevano tasse. Dato che servivano i soldi, li stampavano. La Bolivia era un caso disperato. Ci consideravano irrecuperabili. Nessuno ci aiutava, eravamo soli. La Banca Mondiale aveva chiuso i suoi uffici, il Fondo Monetario Internazionale aveva ritirato il suo rappresentante, mentre i governi degli Stati Uniti e di altre nazioni amiche non rispondevano più al telefono. A 29 anni l'economista Jeffrey Sachs diventa il più giovane professore di ruolo ad Harvard. Nel 1985 alcuni ex studenti mi chiesero se ero disposto a incontrare una delegazione di boliviani in visita. I boliviani arrivano ad Harvard per partecipare a un seminario sull'iperinflazione che devasta il loro paese. Ero molto interessato. Feci qualche osservazione, poi qualcuno dalle ultime file disse ad alta voce: «Se è convinto di ciò che dice, venga alla PAS». Quando arrivai alla PAS nel luglio dell'85, il tasso di inflazione era del 60.000%. Nel 1985 Gonzalo Sánchez de Losada diventa primo ministro per la pianificazione economica ed è convinto che per la Bolivia non ci sia più tempo. Ascoltiamo chi in quel momento si trovava nel governo del paese, i ministri Cariaga e poi ancora de Losada. Gli dicemmo che entro 90 giorni l'iperinflazione della Bolivia sarebbe diventata la più alta nella storia. Ci rispose che avevamo 20 giorni di tempo e dovevamo cominciare subito. Discutemmo animatamente chiedendoci se si potesse fermare un'iperinflazione prendendo delle misure graduali. Jeffrey Sachs intervenne dicendo che non servivano a niente. Quando il problema sfugge di mano, bisogna fermarlo. Come una malattia, bisogna prendere misure radicali, altrimenti il paziente rischia di morire. Per evitare fughe di notizie, i ministri, insieme con Jeffrey Sachs, lavorano a casa. Ogni 2 o 3 giorni, de Losada informa il presidente. Nell'agosto dell'85, de Losada si espone con un programma chiamato Terapia d'Urto. La terapia d'urto decreta la fine della teoria basata sulla dipendenza. Le spese del governo vengono tagliate drasticamente, i controlli sui prezzi eliminati, le tariffe sulle importazioni abolite. I budget di governo vengono rimessi in pari. Non applicammo sofisticate teorie economiche per risolvere l'iperinflazione. Applicammo dei concetti molto semplici, cioè che da quel momento in poi il governo non avrebbe speso più di quanto avesse incassato. Se fosse entrato un peso, avrebbe speso un peso, e così via. Niente soldi, niente spese. Non avrebbe chiesto prestiti alla banca centrale, che così non avrebbe avuto bisogno di stampare altri soldi. Era ancora la voce di Juan Cariaga, ministro delle finanze. Con la terapia d'urto i prezzi dei beni primari come trasporti, cibo, carburante salgono alle stelle. In tutta l'America Latina i governi iniziano a guardarsi intorno. Per una curiosa coincidenza storica, gli eventi della Bolivia hanno una ripercussione diretta sulle economie congelate dell'Europa dell'Est. E Jeffrey Sachs, dell'Università di Harvard, viene contattato di nuovo. Fui contattato da un funzionario del governo polacco che aveva osservato le riforme in Bolivia e aveva visto il mio lavoro in Argentina e in Brasile. Mi chiese di andare in Polonia a risolvere i loro problemi. I polacchi temevano la carestia. La situazione in Polonia è drammatica e per Jeffrey Sachs inizia dunque una nuova avventura, questa volta nell'Europa dell'Est. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Jeffrey Sachs, un giovane economista di Harvard, arriva in Polonia nel giorno in cui si indicano nel paese le libere elezioni. È un momento storico ed è Lech Wałęsa, leader di Solidarność, a raccontarlo. Si può cambiare un governo da un giorno all'altro, ma per cambiare un sistema economico occorrono anni. Quando l'Europa dell'Est osava sfidare il potere sovietico, arrivavano i carri armati e l'Armata Rossa, come a Berlino nel 53, a Budapest nel 56 e a Praga nel 68. Ma nell'89 a Varsavia la reazione fu diversa. Solidarność ottenne 99 seggi su 100. Il capo del Partito Comunista Polacco chiamò Mosca per avere delle direttive. La risposta di Gorbaciov fu sorprendente. Non fare niente. Accetta il risultato di queste elezioni libere. Questa telefonata fu la fine della Guerra Fredda. La Polonia è libera. Ora Solidarność deve liberalizzare l'economia. Una sera in un appartamento di Varsavia, Sachs incontra l'economista del movimento, Jacek Kuron. Stavo cercando di spiegargli come uscire dal caos lasciato dal sistema comunista. Ogni due minuti Kuron batteva il pugno sul tavolo, pam pam pam, e diceva sì sì, Razamim, ho capito. E poi continuava, pam pam pam, Razamim, Razamim. Era molto determinato. Continuammo così per ore. Io ero esausto. La stanza era piena di fumo. Lui disse, bene, ho capito. Scrivete il programma. Ci alzammo dicendo che sarebbe stato un grande onore e che gliel'avremmo trasmesso appena possibile. Lui esclamò, no, mi serve domani mattina. Io scoppiai a ridere, ma lui mi disse con un tono molto serio di scriverlo immediatamente. Elaborammo il programma quella notte e lo consegnammo l'indomani mattina. Fu distribuito ai deputati di Solidarność in Parlamento. La Polonia decise di fare come la Bolivia e di introdurre una terapia d'urto, tagliare le spese di governo e cercare di applicare un sistema di libero mercato. I prezzi raddoppiano e i razionamenti continuano. Let's check. Balcerowicz, il nuovo ministro delle finanze di Solidarność, favorevole anche lui alla terapia d'urto suggerita da Sachs, aspetta che la legge della domanda e dell'offerta entri in funzione. Dopo qualche giorno gli agricoltori rimettono i loro prodotti sul mercato. I suoi collaboratori gli hanno detto di tenere d'occhio le uova. Se le uova fossero arrivate e il loro prezzo fosse diminuito, il mercato si sarebbe ripreso. Le uova arrivano, il loro prezzo comincia a scendere. È lo stesso Balcerowicz a raccontarlo. Ricordo benissimo il giorno in cui scesero i prezzi delle uova. Fu uno dei segnali che il programma di stabilizzazione cominciava a funzionare. Ma riformare le industrie pesanti dello Stato è una sfida molto più impegnativa. Il problema più grave erano le vecchie industrie, retaggio del passato comunista. C'era il problema straziante della disoccupazione e quello di renderle efficienti senza chiuderle. Qui si concentrò lo sforzo maggiore. Rendere efficienti o produttive le industrie statali con eccedenza di mano d'opera significa licenziare gli operai. Questa è la voce di un sindacalista. Ci rendemmo conto ben presto che quel programma impostoci dall'esterno danneggiava maggiormente quei polacchi che più avevano contribuito alla libertà politica. In tutto il paese il mercato è in ripresa, sorgono decine di migliaia di piccole imprese, l'economia polacca comincia a crescere. Ce ne parla il primo ministro polacco, Jan Bielecki. Improvvisamente migliaia di persone vendevano lo stesso prodotto del negozio statale ad un prezzo molto più basso. Dall'ambasciata sovietica di Varsavia, un inviato speciale di Mosca studia la riforma economica attuata in Polonia. È il giovane economista Grigory Jawiński. L'ambasciata sovietica a Varsavia temeva conseguenze disastrose per il proprio paese. Non volevano mandare i miei telegrammi a Mosca. Io descrivevo ciò che stava accadendo, ma loro non erano d'accordo. Io ero favorevole, mentre loro erano assolutamente contrari. Mandai la mia analisi a Gorbaciov. Balcerowicz sta facendo la cosa giusta in Polonia, gli dissi. Gorbaciov chiede a Jawiński di elaborare un programma per un cambiamento economico radicale. Speravo nel giro di un anno e mezzo di poter effettuare la transizione dall'economia sovietica all'economia di mercato. Mi resi conto che dovevamo muoverci al più presto. Tuttavia Gorbaciov non approva la terapia d'urto. Il programma di Jawiński langue sulla scrivania. Ascoltiamo lo stesso Mikhail Gorbaciov. La Polonia era decisamente un progetto pilota e fu molto importante cominciare le riforme proprio. Ma bisogna anche capire che le riforme introdotte in un paese non necessariamente vanno bene per un altro. Gorbaciov osservava la Polonia, ma guardava anche al resto del mondo. Cercava una formula che aiutasse l'Unione Sovietica a compiere la transizione. Qual era il posto più logico dove cercare se non nella Cina comunista, che stava marciando a grandi passi verso il libero mercato? Deng Xiaoping era un comunista di vecchio stampo. Era stato molto vicino a Mao Zedong, ma aveva perso il potere e aveva trascorso un periodo, durante gli arresti domiciliari, a riflettere su quali errori erano stati commessi. Si chiese come mai il sogno comunista si era trasformato in un incubo economico. Quando tornò al potere, capì di avere due possibilità: distribuire povertà o distribuire ricchezza. In Russia i politici si chiedono se la strada cinese verso il libero mercato sia adeguata per il paese. Il KGB propose di fare come la Cina, cioè mantenere il controllo politico e aprirsi ai mercati. Così avrebbe mantenuto il potere, le industrie statali, facendo crescere l'economia. Come aveva fatto la Cina? La repressione della protesta di Piazza Tiananmen nel 1989 mostra fino a che punto il Partito Comunista Cinese sia disposto ad arrivare pur di mantenere il potere. Ascoltiamo un testimone d'eccezione, Lee Kuan Yew, ex primo ministro di Singapore, e poi ancora Jeffrey Sachs. Deng Xiaoping intendeva ristrutturare l'economia prima di aprirsi al mercato. La glasnost e la libertà dovevano aspettare. Salvò il paese da un'implosione simile a quella dell'Unione Sovietica. Molte persone si chiesero come mai Gorbaciov non avesse adottato il programma cinese, senza capire che aveva tentato di farlo per 4 anni. Non tenevano conto che la Russia era un'economia basata sull'industria, dove l'80% della popolazione si concentrava nelle aree urbane, mentre l'economia cinese era agricola e l'80% della popolazione viveva nelle zone rurali. In Russia il settore privato era l'1%, si trattava di qualche ristorante, quindi non si poteva risolvere l'essenza del problema ignorando il settore industriale. Non era semplice. Non potevano adottare un percorso graduale come quello cinese. Gorbaciov rimase impantanato nelle riforme economiche. Cominciò troppo tardi e fu troppo cauto. Non riuscì mai a scardinare le fondamenta dell'economia pianificata. Agosto 1991. I comunisti della vecchia guardia organizzano un colpo di Stato. Boris Yeltsin diventa la voce della resistenza democratica. Il colpo di Stato fallisce. Gorbaciov sopravvive al complotto, ma la sua immagine è compromessa e i giorni dell'Unione Sovietica sono contati. Alla fine del dicembre 1991, Mikhail Gorbaciov apparve in televisione. Disse agli spettatori che nel giro di qualche giorno l'Unione Sovietica avrebbe cessato di esistere legalmente. Dopo 70 anni, l'Unione Sovietica era finita, spariva per sempre. Il presidente della Russia è Boris Yeltsin. A differenza di Gorbaciov, Yeltsin vuole agire più rapidamente. In carica il giovane riformatore Yegor Gaidar di trasformare la Russia in un'economia di mercato. Così il giornalista Yergin e lo stesso Igor Gaidar. Per Gaidar fu un duro colpo. Non c'erano soldi nelle casse dello Stato, non c'era oro, non c'era grano a sufficienza per l'inverno. Non si capiva nemmeno chi fosse responsabile delle armi nucleari. Gaidar in un secondo tempo disse che era come volare su un aereo dove non c'era nessuno ai comandi. Avevo capito che il paese non poteva continuare così, l'economia non funzionava e se non fossimo intervenuti sarebbe arrivata la catastrofe che tutti temevano. Non avremmo avuto cibo a sufficienza. Facevamo le file ogni giorno per comprare lo zucchero, i fiammiferi, il sale. I prezzi erano alle stelle. La situazione economica era assolutamente disastrosa. L'inflazione si attestava al 20% mensile. Gli scaffali erano vuoti. I prezzi aumentavano in modo vertiginoso. Gaidar doveva sbrigarsi. Era la voce di Lilia Shevetsova, biografa di Yeltsin. La situazione, insomma, nell'Unione Sovietica al collasso. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24 con il racconto della storia dell'economia del mondo. È il 1991, il nuovo presidente dell'Unione Sovietica, Boris Yeltsin, ha nominato Igor Gaidar, che ha soli 35 anni, responsabile di tutta l'economia russa. Gaidar riunisce una squadra di giovani economisti esperti di libero mercato. Tra loro c'è anche il 36enne Anatoly Chubais. I comunisti più intransigenti li chiamano i ragazzini in calzoncini rosa. Jeffrey Sachs a questo punto ha 36 anni, viene chiamato anche a Mosca come consulente per le riforme economiche. Naturalmente avevo in mente l'esperienza polacca, ma la Russia si rivelò un caso del tutto diverso. In Parlamento la maggior parte dei comunisti e gli altri partiti si oppongono alle riforme. Fin dal primo momento Gaidar fu duramente attaccato dai politici. Appena 7 giorni dopo l'inizio delle riforme, il capo del Parlamento chiese le dimissioni del governo. Vi chiedo solo di comprendere la gravità della situazione. Gaidar e i suoi collaboratori vogliono utilizzare le riforme economiche come arma politica per distruggere il vecchio sistema comunista, prima che questo distrugga loro. 31 dicembre 1991. Da domani i prezzi saranno liberalizzati. Le riforme di Gaidar toccheranno direttamente l'uomo della strada. Sarà anche la fine di tutto ciò per cui i comunisti si sono sempre battuti. Subito dopo, Gaidar abolisce la legge sovietica che considera criminale ogni attività privata. Gaidar sostiene che un mercato veramente libero porrà fine ai razionamenti. Presto avrebbe saputo se aveva ragione. Ascoltiamolo. Stavo andando nel mio ufficio sulla Piazza Vecchia, vicino a un negozio per bambini. Vidi una gran folla. Mandai i miei collaboratori a vedere cosa stesse accadendo. C'erano centinaia di persone con le merci più svariate. Avevano tutte una copia dell'autorizzazione al libero commercio e cercavano di comprare o vendere merce. A quel punto mi resi conto che 75 anni di comunismo non erano riusciti a soffocare lo spirito imprenditoriale. Fu un momento cruciale. A partire da allora non ci furono più razionamenti in Russia. Sentivo che avevamo ragione e che le forze di mercato funzionavano anche in quella economia sofferente. Il mercato rinasce, ma per l'uomo della strada le riforme significano prezzi più alti. Andai in un grande magazzino. Volevo vedere le facce dei moscoviti, vedere se avrebbero protestato davanti a quei prezzi esorbitanti che secondo Gaidar dovevano soltanto raddoppiare. Invece aumentarono di 12 volte. I prezzi continuano a salire. Gli intransigenti che dirigono la banca centrale peggiorano la situazione. La loro politica alimenta l'inflazione. Per l'economia russa, dunque, la strada è ancora piena di ostacoli, ma intanto anche l'India rischia la bancarotta. Siamo in India nel 1991 e la situazione economica è critica. Eravamo molto indebitati, dovevamo ipotecare i nostri depositi d'oro. Il nostro tasso di crescita era prossimo allo zero. Tutto questo si aggiungeva alla nostra profonda crisi. Durante la crisi, l'economista Manmohan Singh riceve una telefonata urgente dal primo ministro. Viene nominato ministro delle finanze. Ascoltiamolo. Gli dissi che eravamo alle soglie di un crollo. Quando assunsi l'incarico, le nostre riserve per il commercio estero non superavano il miliardo di dollari, pari alle importazioni di 2 settimane. Il discorso era semplice. Stavamo attraversando una crisi senza precedenti. Dovevamo prendere decisioni importanti. Suscitando sdegno e sconcerto nel suo partito, il primo ministro autorizza la riforma per il libero mercato. La figura del Rajah scompare. Il controllo statale viene limitato e i sussidi del governo tagliati. Vengono ridotte tariffe commerciali ed eliminate le varie licenze di autorizzazione. Creammo un numero record di posti di lavoro, l'inflazione era sotto controllo e l'economia cresceva del 7% all'anno. Così mettemmo a tacere chi ci criticava. In Russia, intanto, dopo una prima apertura al libero mercato, le leve del potere economico sono ancora nelle mani dello Stato. In un impeto di idealismo, i giovani economisti decidono di democratizzare le industrie statali semplicemente svendendole. Il responsabile di questo programma di privatizzazione è Anatoly Chubais. I 70 anni di monopolio comunista stanno per finire. I cittadini russi ricevono dei buoni da utilizzare per l'acquisto di aziende privatizzate. Ci dovranno essere milioni di azionisti, non soltanto pochi milionari. Tutti i cittadini russi, gli operai, i pensionati e i bambini riceveranno buoni di privatizzazione del valore di 10.000 rubli. Resta un problema. Nessuna azienda è pronta ad essere privatizzata. Avevano distribuito 144 milioni di buoni, ma non sapevano come dovessero comportarsi le aziende durante questa fase gestita dai privati e non dallo Stato. I giovani riformatori chiedono a Boris Jordan, uno dei primi banchieri stranieri, di aprire una filiale a Mosca, di trovare un'azienda da privatizzare. Ascoltiamo lo stesso Boris Jordan che racconta il primo esperimento di privatizzazione in Unione Sovietica. Se non avessero lanciato il programma entro il 9 dicembre 92, data della riunione del Congresso dei Deputati, i comunisti avrebbero stroncato la privatizzazione. I giovani riformatori corrono contro il tempo. Dovevamo sbrigarci. Senza privatizzazione non ci sarebbe stata economia di mercato. Limitano la ricerca a un'azienda nei dintorni di Mosca. Non è esattamente ciò che Lenin avrebbe definito un pilastro dell'economia, ma la fabbrica di biscotti bolscevik produceva i dolcetti preferiti dai russi. Non dico che dovevamo corromperli, ma dovevamo dar loro degli incentivi. E così assegnammo ai dirigenti e agli impiegati delle aziende circa il 50% delle azioni societarie. Il resto sarebbe stato venduto sul mercato attraverso i buoni. Aprimmo al pubblico la prima asta ufficiale di un'azienda russa l'8 dicembre 1992. Il giorno dell'asta, la rabbia degli oppositori delle riforme si sfoga in Parlamento. I comunisti della vecchia guardia ritirano la fiducia a Gaidar. Lo ricordo benissimo. Avevamo già aperto l'asta ed ero seduto in una stanza del palazzo. Guardavo la televisione e vidi che Gaidar fu dimissionato. L'opposizione comunista costringe Yeltsin a sacrificare Gaidar. Il suo sostituto, Viktor Chernomyrdin, è un uomo del vecchio sistema. Eravamo certi che dopo l'allontanamento di Gaidar dalla carica di primo ministro alla fine del 92, la corruzione sarebbe aumentata. Le industrie statali vengono vendute, il commercio di buoni fa nascere un primo mercato azionario. La nuova economia muove i primi passi, anche se con andatura incerta. A Mosca la speculazione è diffusa. Qualcuno chiama la Russia il selvaggio est. In molte società è presente la corruzione. La Russia aveva un'elite cresciuta in un ambiente così amorale durante il sistema sovietico, da credere che la proprietà fosse davvero un furto. Pensavano, dato che siamo entrati in un sistema di proprietà privata, rubiamo. E in Russia c'era molto da rubare. C'erano petrolio,

sarebbe stato quello di impedire il ritorno dei comunisti. Con le loro aziende di telecomunicazione e i loro capitali, gli oligarchi sostengono la campagna di rielezione di Yeltsin. Cantando e ballando per tutta la Russia, Yeltsin guadagna popolarità e vince. Potanin entra nel governo di Yeltsin. Con lui gli oligarchi sono dentro il Cremlino. Potanin ottiene il suo scopo. Controlla la Norilsk Nickel e con essa un terzo del nickel mondiale. Per un'azienda con un fatturato annuo di 2 miliardi e mezzo di dollari, Potanin ha pagato 170 milioni di dollari. Ascoltiamo ancora Potanin. Provai una sensazione di vittoria. Fino a qualche anno prima non era nemmeno pensabile di competere con i direttori russi. Vincemmo la lotta. Noi imprenditori giovani, attivi, preparati per la competizione. Molti anni dopo ci sentimmo investiti di una grande responsabilità, perché quando si arriva a certi livelli si diventa responsabili per tutto ciò che accade. Ma ce ne accorgemmo in un secondo tempo. Per molti l'accordo dei prestiti su garanzia di azioni diventa più di uno scandalo. È considerato il furto del secolo. Ma è un prezzo che Yeltsin intende pagare per escludere i comunisti. Il fine giustifica i mezzi. È così che i bolscevichi fecero la rivoluzione in Russia, ed è per questo che finì in un disastro. Quando si utilizza la formula per cui il fine giustifica i mezzi, si distrugge sempre il fine. Nella Russia di Yeltsin impera il capitalismo dei favori. Per molti le riforme ormai significano corruzione, inflazione e discriminazioni. Nel 1998 la Russia non riesce a ripagare i debiti e il mercato azionario crolla. L'epoca di Yeltsin termina con le sue improvvise dimissioni il 1 gennaio del 2000. Abbiamo al telefono, come sempre, Fabrizio Galimberti, editorialista del Sole 24 Ore. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi la nostra storia si chiude con il crollo dell'Unione Sovietica e dell'economia di Stato. Qual è il maggior rischio che corre un governo quando decide di liberalizzare la sua economia? Il peggiore rischio è che la liberalizzazione di solito porta a dei vantaggi che sono di medio periodo e degli svantaggi che sono invece di breve periodo, nel senso che liberalizzare vuol dire togliere il tappeto sotto i piedi a molte situazioni di privilegio e quindi c'è della gente che viene danneggiata subito, e di solito quelli che sono danneggiati sono anche coloro che hanno la possibilità di fare la voce più grossa, perché sono quelli che prima godevano di rendite di posizione e quindi erano favoriti dal sistema e avevano acquistato un maggiore controllo anche sui media, sui mezzi di comunicazione. Ecco, quindi c'è questo problema, il rischio che per ovviare a questo rischio bisogna fare la cosiddetta liberalizzazione tutta suit, nel senso di farla a tutto campo, di fare tante misure che colpiscono a destra, a sinistra, in alto e in basso, così che si crea un pubblico, un'audience molto variegata, in cui ci sono sia coloro che hanno vantaggi sia coloro che hanno svantaggi, e quindi si compensano. Ma nella Russia di Yeltsin il passaggio da un'economia nelle mani dello Stato ad un'economia nelle mani di pochi uomini d'affari poteva andare diversamente? Beh, diciamo che la liberalizzazione nel caso dell'economia russa era molto diversa dalla liberalizzazione che possiamo avere noi, come le famose lenzuolate di Bersani o anche quello che adesso sta cercando di fare Renzi. E quella lì era una liberalizzazione in cui si passava da un'economia di comando a un'economia di mercato, e quindi direi che non poteva andare diversamente, perché nell'economia di comando c'erano troppe situazioni radicate di potere e coloro che venivano minacciati sarebbero stati lesti a diventare, da potenti burocrati, da potenti direttori rossi, a diventare i famosi oligarchi. E quindi questo è purtroppo quello che è successo, e ancora adesso la Russia non riesce a togliersi da questa situazione di un'economia di comando che ha voluto passare economia di mercato, ma si è trovata con una cleptocrazia difficile da spodestare. Certo, era, dici, inevitabile. Anche in Italia però avevamo, parlo delle liberalizzazioni degli anni 90, era probabilmente più distribuito il potere economico. Beh, diciamo che nella liberalizzazione in Italia degli anni 90, che riguardarono principalmente le aziende IRI e le banche, la situazione era più diffusa, era diversa, era, come dicevi, maggiormente distribuito il potere economico e c'era anche un tessuto finanziario preparato ad avere dentro le mani i proventi delle liberalizzazioni, anche se nel caso delle banche l'idea di passare alle fondazioni, un mostro di Frankenstein, come poi confessò Amato, che creò questo sistema delle fondazioni, quella lì non fu una buona idea. Però sostanzialmente l'Italia era già un'economia di mercato, era un'economia che aveva una rete di sicurezza. In Russia tutto ciò mancava. Fabrizio Galimberti, ma l'economia cinese di cui abbiamo accennato la storia sorpasserà gli Stati Uniti? La risposta a questa domanda bisogna guardare la storia. Diciamo che adesso ci sembra una gran cosa che l'economia cinese possa sorpassare gli Stati Uniti, però per la maggior parte del tempo, negli ultimi 2000 anni, l'economia cinese è stata la più grossa del mondo. Quindi si tratterà di un ritorno alla normalità, anche se per quanto riguarda il benessere individuale, cioè non il PIL complessivo, non il reddito nazionale complessivo, ma quello pro capite, ci vorrà ancora moltissimo tempo prima che la Cina possa sfidare gli Stati Uniti in termini di reddito pro capite. Ma è un modello la Cina? Beh, diciamo che è un modello nel senso che prima c'era l'economia di comando, c'era l'economia di mercato e sembravano gli unici due modelli possibili. Adesso invece con la Cina c'è stato un modello diverso, un modello che ha le libertà economiche, almeno in grossa parte, anche se non in tota parte, però non ha le libertà politiche, quindi è un modello di un'economia, diciamo, che rimane eterodiretta dal centro, in cui c'è un gran fermento di base, un gran fermento produttivo di base, in cui c'è un partito unico. E in effetti il grosso punto interrogativo per la Cina è fino a quando le libertà economiche potranno coesistere con la mancanza di libertà civili. Grazie. Grazie a voi. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. X24